Stanotte da stamattina sono riprese delle precipitazioni, sono di debole intensità, però hanno già localmente dato dei valori di alcuni millimetri e soprattutto stavolta sono un po' più alte nella parte montana, in Appennino, dove abbiamo già registrato anche localmente una ventina di millimetri per quanto riguarda il Reno e poi possiamo dire anche Panaro e Secchia nel Modenese. Le precipitazioni continuano per la giornata di oggi, ci potranno essere dei momenti, forse verso sera, che si attenueranno, ma ci attendiamo una ripresa anche domani. Complessivamente dovremmo avere delle precipitazioni dai 10 ai 20 o 30 mm accumulati nelle due giornate, con però delle punte più alte che possono arrivare anche a 40 mm nelle zone appenniniche. Molte zone in Romagna sono già in ginocchio, al momento si contano 14 morti. Quali sono le possibili conseguenze di queste ulteriori piogge? Cosa si potrebbe fare, diciamo, per aiutare? L'aspetto, diciamo, è che la situazione è di tanti corsi d'acqua che hanno avuto delle rotture arginali, l'acqua è uscita in tanti punti, quindi c'è una situazione che è abbastanza un po' compromessa, diciamo. Queste precipitazioni, anche se nella parte romagnola sembrano un po' più basse come cumulati complessivi, però determineranno di sicuro un nuovo innalzamento, perché adesso i suoli sono talmente saturi che appena piove subito i fiumi si alzano di livello e potranno di nuovo interessare le aree golenali e anche i tratti, possono anche i tratti arginati. Il punto è che ci sono delle situazioni in cui sono cambiate sul territorio gli argini e sono anche molto più fragili, perché avevano avuto questo evento di due settimane fa, dei primi di maggio, quindi questo evento che complessivamente, anche se ha avuto una durata un po' inferiore, 24-30 ore rispetto alle 48 dell'altra volta, è stato di portata paragonabile e localmente anche superiore e quindi abbiamo una situazione di elevata criticità e queste piogge possono determinare ancora dei nuovi innalzamenti, anzi li determineranno sicuramente, ma non siamo in grado di dire che criticità si potranno determinare sul territorio, perché dipende appunto dalle vulnerabilità locali già presenti.